Buongiorno, una giornalista giovane, basta, insomma si fa andare, prego venite. Io sono nata a Firenze, da molto piccola sono andata in Africa, sa, nel periodo in cui c'era l'impero, e mio padre era andato prima di noi per motivi di famiglia, poi l'abbiamo raggiunto e siamo stati là per 10-11 anni, fino al 48, diciamo dal 37 al 48. Io lì ho passato tutta la mia vita, mi sono formata, ho fatto le mie scuole e quindi ho lasciato mezzo cuore là. Noi eravamo all'Asmara, la capitale dell'Eritrea. Allora, io sono arrivata in Africa che avevo 8 anni e da lì sono venuta via che ne avevo 19. Ho fatto tutte le mie scuole, dalle elementari fino a tutto il liceo, e lì è stata la mia formazione, il mio carattere, il mio modo di vedere e di pensare sta in Africa. Noi eravamo all'Asmara, 2400 metri, un clima sempre primaverile, un sogno, una meraviglia, e come comunità eravamo italiani provenienti da tutte le regioni d'Italia, per cui era una comunità mista, se possiamo dire così, che aveva un modo di parlare strano, perché non, con una specie di dialetto, non era un dialetto, era un italiano fatto in quella maniera. La Bassa Italia, l'Alta Italia, non esisteva niente, il figlio del falegname, il figlio del professionista, non esisteva nessuna tipo di classismo, questo lo posso dire chiaramente, come non esisteva neanche razzismo, perché i bianchi e i neri, così si chiamano, erano divisi, cioè i neri venivano nella città bianca, diciamo così, perché è inutile dir di no, la città bianca l'abbiamo fatta noi tutta, dalle strade, dagli acquedotti, le ferrovie, tutto quello che non c'era niente. Venivano di buon grado a lavorare e di buon grado li facevamo lavorare. Quindi c'era una comunità tranquilla. Io quello che sento qui, i musulmani, così. A scuola avevamo l'ateo, avevamo il musulmano, avevamo i cristiani, avevamo i valdesi. Quando era l'ora di religione, perché allora c'era l'ora di religione, questi normalmente si alzavano, andavano in aula magna, nessuno faceva caso, nessuno faceva beo. Tranquillo, tutto sereno. Quindi io devo dire che nessuna lotta fra i cristiani, i musulmani, i copti e i cattolici, non l'ho mai visto questo. Per venire via ci siamo dovuti mettere in lista d'attesa, così si chiamano, per poter rimpatriare con le navi del rimpatrio, perché noi ci hanno buttato fuori. Mio padre ha perso tutto. Noi 16 anni mio padre ha fatto in Africa. Persi completamente la casa, la ditta, tutto. Siamo stati anche in campo di concentramento, che non è un campo di concentramento come quelli che c'erano qua, assolutamente no, però era, chiamiamolo come volete, recintato, non si poteva uscire, eravamo tutti in capannoni che una volta erano state le caserme degli Ascari, potete immaginare un po' che cos'era, insomma, no? E lì, per 7-8 mesi, siamo stati là, senza nessun sussidio, niente, perché noi avevamo del nostro finché l'abbiamo consumato, finito, non se ne parla. O si andava in Argentina, o si andava in Sudafrica, o si andava in Australia, o si ritornava in Italia. Siccome in Italia, per fortuna, noi non eravamo scappati per miseria, questa è una parentesi, avevamo la casa, i negozi, eccetera, siamo tornati in Italia e lì siamo tornati. E venir via è stato strapparci da un posto dove si stava molto bene, no? Io sono nato nel 1924, quindi pochi anni dopo la Prima Guerra Mondiale, e in famiglia c'era un lutto per la morte di mio zio Arturo De Bonetti, che è morto a Malgarzures in combattimento nel dicembre del 1915. E in quel momento c'erano ancora le emozioni relative agli ultimi avvenimenti di quella guerra. Poi mio padre ha trovato un posto a Venezia E quindi all'età di 7 anni sono partito da Nago, sono andato a Venezia. Sono partito piangendo perché io sono nato in questa casa, dietro la casa c'è un bel giardino abbastanza grande per un bambino, molto adatto, insomma. E partivo per Venezia senza sapere quale sarebbe stato il nostro avvenire. Non conoscevo la città, ero troppo a 7 anni, un bambino. Non è in grado di capire ancora. Quindi quando sono arrivato a Venezia, ho cominciato a camminare per quelle cali strette, mi sono sentito veramente male. Comunque, io avevo fatto a Riva del Garda gli esami di stato per la missione alla seconda elementare, perché la prima non l'ho mai fatta, no? Mi hanno insegnato in famiglia, hanno comperato un abecedario che ho ancora, che tengo ancora, e ho imparato a scrivere e a leggere con quello. Però, siccome in famiglia tutti disegnavano, ho anche imparato a disegnare. Quindi per me era molto più importante il disegno di tutto il resto. E quando ho fatto questo famoso esame, io mi hanno detto di fare un disegno, i maestri, e ho cominciato a disegnare su una lavagna. E ho disegnato il lago di Garda, le montagne, e a un certo punto loro si sono stufati perché avevano da fare, quindi mi hanno detto bene, bene, bene, basta così, al che ho piantato un chiodo e sono stato lì finché non ho finito tutto. La scuola era una scuola popolare, un quartiere popolare di Venezia, a San Stin. Era come un piccolo manicomio, perché insomma, erano tutti scatenati, bisognava vedere che roba, no? Quando c'era la maestra c'era un certo ordine. Quando la maestra andava, usciva, aveva da fare qualcosa, veniva o il bidello o il maestro di quarta, veniva lui a tenere la classe. Ma per farvi un'idea, io mi ricordo uno dei miei compagni di classe con una penna. Allora, noi usavamo delle penne col pennino d'acciaio, no? Col pennino d'acciaio, che è un pennino, una punta mica e di un ragazzo che aveva una penna piantata qua, perché si tirava e se le tiravano le penne, Questo no? sarebbe meglio non dirlo, E lui scherzava così non lo mica. sai. Un altro spettacolo era poi, questo un po' quando ero un po' più grande, perché da piccino piccino non si capisse niente. Però quando avevo 10-12 anni mi divertivo un mondo perché la famiglia aveva diverse campagne, no? Quindi avevamo una certa produzione di frumento. Allora la macchina per battere il frumento, per levare la pula e tutto il resto, entrava nel cortile e faceva una nuvola di fumo quando lavorava, no? E allora è una cosa che ai bambini fa piacere, più confusione è e più ci divertiamo, vero?